guarda, due cose. La prima è che non è che è la TV, perché tutte le volte si fa il processo alla TV. Lì, ammesso che i giornalisti siano un po' invadenti e a volte anche un po' sciocchi, sono tutti giornalisti, non è che ci sono quelli della TV che sono più cattivi, più irrispettosi, eccetera, degli altri, tutti, anche quelli del Sole 24 Ore, quelli del Corriere della Sera, di Repubblica, quelli che lavorano per i siti di questi stessi giornali, cioè non è che la televisione sporca e gli altri. Ma no, questo assolutamente no. Invece è uno sport nazionale, no? Quello di fare il processo alla TV, perché la TV è semplicemente per il fatto che la vedi, no? E ti fa vedere, per cui si presta anche di più ad essere criticata. Ma l'altra cosa che voglio dire è che io sinceramente trovo intollerabile ormai questo processo sommario, ma le responsabilità sono individuali, che senso ha dire la televisione si comporta come un mostro? Ci sono dei giornalisti televisivi che sono che si comportano male, e ci sono dei giornalisti televisivi, delle televisioni, dei programmi che si occupano correttamente, onestamente, anche da un punto di vista intellettuale, delle storie che raccontano. Questa cosa che sono tutti un branco di mascalzoni, cioè io la trovo inaccettabile. Ma però non c'è secondo te un limite tra il racconto di il racconto di cronaca nera? La cronaca nera fa parte, insomma, è una branca del giornalismo fondamentale da sempre, ed è giusto che venga raccontata perché sono notizie. Dopodiché e chiedo se ci sia un limite oltre il quale diventa una spettacolarizzazione. Non so, ma qual è questo limite? Ma non so, per esempio, urlare mi dica sì o no. Ma qual è il punto oltre il quale un giornalista non deve andare? Cioè, deve arrivare fino a 2 metri dalla porta di casa e poi non andare oltre? Cioè, sono regole che non hanno ragione di esistere, perché ognuno ce le ha dentro di sé. Se poi le rispetta una persona onesta, va bene, ma non è che si può dire per legge o scrivere in un protocollo dove bisogna fermarsi e dove si può andare avanti. Io trovo che questo sia estremamente ipocrita. Vediamo. Ma di cose ipocrite ce ne sono anche chi ha criticato tutte queste TV, e poi l'audience, sappiamo, no? Immagino lo share anche da te sia impazzito in questi giorni. Insomma, sì, sia molto aumentato. Scusami, però non è che lo si fa per lo share. Certo, meglio per essere ascoltati e visti, sì. Se si è più ascoltati che meno ascoltati, così è meglio vendere più copie che meno copie, ovviamente. Però ti posso assicurare che, almeno poi io parlo per me, ripeto, non voglio generalizzare io. Io seguo questa vicenda perché tocco con mano, anche andando a prendere il caffè la mattina, andando in giro, andando sul taxi. È vero, leggono tutti, è vero, lo confermo. L'opinione pubblica, poi si potrà criticare naturalmente, l'opinione pubblica vuole essere informata.